La voglio! La voglio! La voglio anch'io! La voglio pure io! E anche io! Eh sì, tutti vogliono Fiat Pandina Hybrid! E tu? Fiat Pandina Hybrid in pronta consegna e tua da 10.450 euro oltre oneri finanziari, con rottamazione fino a Euro 4, ma solo fino ad aprile! Non fartela scappare! Anticipo zero, 35 rate da 154 euro al mese, rata finale 8.522 euro, TAN 8,75, TAEG 12,62%, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri l'offerta su fiat.it. Fra il tempo in cui l'oceano inghiottì l'Atlantide e il sorgere dei figli di Arya, vi fu un'era al di là di ogni immaginazione, in cui regni meravigliosi si stendevano come mantelli azzurri sotto la volta delle stelle. I loro nomi erano Nemedia, Ophir, Britunia e Iperborea. C'erano Zamora, dalle brune fanciulle e le torri infestate dai ragni. Zingara, dalla potente cavalleria. Kod, che confinava con la terra di Shem. Stygia, con le sue tombe guardate dalle ombre. E Hyrcania, dai cavalieri vestiti di ferro, seta ed oro. Ma il più potente dei reami era Aquilonia, che dominava incontrastata sull'Occidente, ricco di sogni. Fu in questo mondo che si fece strada Conan il Cimbero, uomo dai capelli neri e gli occhi torvi, la spada sempre in pugno. Un ladro, un predone, un assassino dalle gigantesche malinconie e i giganteschi scoppi d'allegria. Sono io, suo cronista, il solo che può raccontarvi la sua saga. Lasciate che vi dica di quei giorni di gloriose avventure. La Torre dell'Elefante. Uno. La fiamma delle torce non gettava mai troppa luce sulle baldorie del Maglio, dove i ladri dell'Est si riunivano di notte a gozzovigliare. In un quartiere del genere, chiunque vivesse al di là della legge poteva fare quello che voleva. I cittadini onesti lo evitavano e i gendarmi, corrotti a suon di monete insanguinate, non disturbavano i divertimenti dei malfattori. Lungo le strade tortuose e mal pavimentate, i tagliaborse, ubriachi, urlavano a squarciagola tra mucchi di rifiuti e pozzanghere disgustose. Il ferro brillava nel buio dove il lupo depredava il lupo e tra le ombre risuonavano le risate delle donne e i rumori di lotte e risse. Dalle finestre rotte e dalle porte spalancate filtrava la luce violenta delle torce, ma anche l'odore del vino rancido e del sudore, il tintinnio delle brocche, il frastuono dei pugni battuti sul tavolo e l'aria di qualche canzone oscena. Era come prendere un colpo in faccia. In una di quelle tane l'allegria rimbombava fino al soffitto, dal resto basso e macchiato di fumo. Gli avventurieri che la infestavano portavano addosso tutte le specie di stracci conosciuti, per lo più a brandelli. Erano scippatori, professionisti del rapimento, ladri dalle dita leste e bravacci ubriachi in compagnia delle solite puttane, donne dalla voce stridula e l'abbigliamento volgare. I ladri locali costituivano l'elemento dominante, zamorani dalla pelle scura e gli occhi neri, con il pugnale alla cinta e la malizia nel cuore. Ma c'erano delinquenti di almeno altre sei nazioni. Un gigantesco rinnegato iperboreo, taciturno e pericoloso, con la spada che pendeva dalla persona allampanata. Nel Maglio si circolava sempre armati apertamente. Un falsario scemita, con il naso a uncino e la barba talmente nera da sembrare blu. Una prostituta brituniana dall'espressione sfacciata, che sedeva sulle ginocchia di un mercenario di Gundar, rosso di capelli e disertore da qualche esercito sconfitto. quanto all'uomo grasso e untuoso che rallegrava gli altri a suon di battute salaci, era un sequestratore professionista ed era venuto dal COT con la pretesa di insegnare agli zamorani il ratto delle donne. Ma quelli ne sapevano più di quanto lui avrebbe mai potuto imparare. L'uomo aveva appena descritto le grazie di una futura vittima quando si interruppe e tuffò il muso in un enorme boccale di birra schiumante. Poi, asciugatosi la schiuma dalle labbra, proseguì. «In nome di Bel, dio di tutti i ladri, vi farò vedere come si rapisce una ragazza. La porterò oltre i confini di Zingara, prima dell'alba, e ci sarà una carovana ad attenderla. Un conte di Ofir mi ha promesso 300 pezzi d'argento per una giovane brituniana della classe superiore. Mi ci sono volute settimane, ho ispezionato tutte le città di confine, travestito da mendicante, ma alla fine ci sono riuscito! È veramente un bocconcino! Mua!» E fece schioccare le labbra nell'aria, come se volesse baciare qualcuno. «Conosco certi signori nello Shem che cederebbero il segreto della torre dell'elefante pur di averla», aggiunse, tornando alla sua birra. Qualcuno gli tirò la manica della tunica e l'estofante si girò con aria imbronciata. Davanti a lui, in piedi, stava un giovane alto e robusto che sembrava altrettanto fuori posto di un lupo grigio in mezzo ai topi di fogna. L'umile tunica che indossava non riusciva a nascondere la muscolatura possente, le spalle larghe e poderose, il petto massiccio e le braccia pesanti. Era snello di fianchi e aveva la pelle abbronzata dal sole. Gli occhi azzurri, brucianti, erano sfiorati da una ciocca di capelli neri che gli ricadeva sulla fronte spaziosa. Alla cintola portava la spada in un logoro fodero di cuoio. Il cotiano si tirò indietro involontariamente perché l'uomo non apparteneva a nessuna delle razze civili che conoscesse. «Tu hai nominato la torre dell'elefante», disse lo sconosciuto parlando zamorano con accento straniero. «Ne ho sentito parlare parecchio. Qual è il suo segreto?» Lo sconosciuto non sembrava ostile e il coraggio del cotiano fu stimolato dalla birra e dall'evidente approvazione dell'uditorio. Si gonfiò d'importanza ed esclamò: «Il segreto della torre? Qualunque idiota sa che Yara, il sacerdote, vive là dentro con il gioiello che gli uomini chiamano cuore dell'elefante. È la fonte delle sue arti magiche». Il barbaro digerì l'informazione per qualche secondo. «Conosco la torre», disse poi. «Si trova in un grande giardino che domina la città ed è circondato da alte mura. Non ho visto guardie, ma direi che non è difficile scalare le mura. Perché nessuno ha mai tentato di rubare il gioiello?» Il cotiano lo guardò a bocca aperta, stupito dall'ingenuità che il giovane dimostrava. Poi scoppiò a ridere con disprezzo e gli altri si unirono a lui. «Sentite questo pagano! Vuole rubare il gioiello di Yara!» E voltando il grosso corpo verso l'altro. «Amico, tu devi essere un barbaro del nord o qualcosa di simile!» «Sono un cimmero», rispose lo straniero in tono poco amichevole. Ma sia la risposta che il modo in cui era stata pronunciata non significavano granché per il cotiano. Lui veniva da un regno del sud, ai confini con lo Shem, e conosceva poco le razze del settentrione. «Allora ascoltami e fai tesoro di quello che ti dirò», proseguì agitando il boccale di birra verso il giovane disorientato. «Devi sapere che in Zamora, e in questa città in particolare, ci sono i ladri più coraggiosi del mondo, COT incluso. Se un mortale potesse rubare la gemma, stai certo che sarebbe già successo da tempo. Parli di scalare le mura, ma è dopo averle scalate che cominciano i guai, e tu vorresti tornare indietro. Nel giardino, di notte, non ci sono guardie, per un'ottima ragione. Guardie umane, voglio dire. Ma alla base della torre c'è un locale di sorveglianza con uomini armati. Ammesso che tu riesca a eludere i guardiani del giardino, poi dovresti vedertela con i soldati. La gemma si trova in una stanza superiore. Nessuno sa dove». «Ma se qualcuno riuscisse a superare il giardino», obiettò il cimmero, «perché non potrebbe penetrare nella torre dalla cima, evitando i soldati?» Di nuovo il cotiano lo fissò a bocca aperta. «Sentitelo!» gridò con insolenza. «Questo barbaro è un'aquila e può volare fino al cielo! Dopotutto la torre è alta solo 50 metri e ha i fianchi lisci come vetro levigato!» Il cimmero si guardò intorno, imbarazzato dallo scoppio di risate che aveva sottolineato le parole del Cotiano. Lui non ci vedeva niente di comico ed era troppo nuovo alle finezze della civiltà per apprezzarne le scortesie. Gli uomini civili sono più villani dei selvaggi perché sanno di poter essere maleducati senza che qualcuno per questo gli spacchi la testa, almeno come regola generale. Lo straniero era scosso e sarebbe andato via senz'altro, demoralizzato, se il Cotiano non avesse deciso di tormentarlo ancora un po'. «Avanti! Spiega a questi poveri diavoli come faresti a rubare il gioiello! Dopotutto fanno i ladri solo da prima che tu nascessi!» «C'è sempre un mezzo, se al desiderio si unisce il coraggio!» rispose brevemente il cimmaro preso nel gioco. Il Cotiano si comportò come se avesse ricevuto un'offesa personale e la faccia gli diventò paonazza. «Cosa? Osi insegnarci il nostro mestiere e insinuare che siamo dei vigliacchi? Vattene, levati dai piedi!» E diede un violento spintone al cimmaro. «Prima ti prendi gioco di me e poi mi metti le mani addosso!» sibilò il barbaro, il cui temperamento collerico si era infiammato. Restituì lo spintone con il palmo aperto e rovesciò il suo tormentatore sul tavolo della taverna. La birra sprizzò dal boccale e il Cotiano, con un urlo di rabbia, estrasse la spada. «Cane pagano, ti strapperò il cuore per questo!» Lampeggiò l'acciaio e la folla si fece indietro precipitosamente, rovesciando l'unica candela della stamberga. L'ambiente sprofondò nel buio, tra panche rovesciate e trapestio di piedi in fuga, urla e maledizioni di uomini che andavano a sbattere contro altri uomini. Poi, su tutto, si levò un grido di dolore che tagliò l'aria come un coltello. Quando la candela fu riaccesa, la maggior parte degli ospiti era uscita dalla porta o dalle finestre rotte e gli altri si nascondevano dietro gli orci di vino o sotto i tavoli. Lo straniero se n'era andato, ma al centro della stanza giaceva il cadavere insanguinato del Cotiano. Con l'istinto infallibile del barbaro, il cimmaro aveva ucciso il suo avversario, nonostante il buio e la confusione. La voglio! La voglio! La voglio anch'io! La voglio pure io! E anche io! Eh sì, tutti vogliono Fiat Pandina Hybrid! E tu? Fiat Pandina Hybrid in pronta consegna e tua da 10.450 euro oltre oneri finanziari, con rottamazione fino a Euro 4, ma solo fino ad aprile! Non fartela scappare! Anticipo zero, 35 rate da 154 euro al mese, rata finale 8.522 euro, TAN 8,75, TAEG 12,62%, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri l'offerta su fiat.it! Le luci violente e il frastuono dei bagordi si attenuarono alle spalle del giovane. Si era tolto la tunica strappata e avanzava nudo nella notte, a parte un perizoma e un paio di calzari allacciati intorno alla gamba. I suoi movimenti ricordavano quelli di una tigre e i muscoli d'acciaio guizzavano sotto la pelle abbronzata. Era entrato nel quartiere dei templi, che da ogni parte luccicavano alla luce delle stelle. Candide colonne di marmo, cupole d'oro e archi d'argento, sacrari dei mille strani dei di Zamora. Il barbaro non si preoccupò di entrarvi. Sapeva che la religione di Zamora, come quella di tutti i paesi antichi e civili, era complessa e intricata e aveva smarrito gran parte dell'essenza originaria in un labirinto di formule e rituali. Per ore lui era rimasto nei cortili dei filosofi, ascoltando le controversie di teologi e professori, ma ne aveva ricavato un'unica certezza, che fossero tutti matti. I suoi dei, al contrario, erano semplici e comprensibili. Il loro capo era Crom e viveva su una grande montagna da cui dispensava sciagure e morte. Era inutile supplicare Crom, che era un dio feroce e odiava i deboli. Ma alla nascita instillava nell'uomo il coraggio e con il coraggio la volontà di uccidere i nemici, il che, per la mentalità dei cimmeri, era tutto ciò che ci si può aspettare da un dio. I sandali del barbaro non facevano rumore sulla strada lastricata. Non c'erano soldati e i ladri del maglio non si azzardavano a sconfinare nella zona dei templi, i cui violatori erano sempre stati vittima di orribili sciagure. Davanti a lui si stagliava la torre dell'elefante e il cimmero si chiese perché la chiamassero così. A quanto pareva, nessuno era in grado di dirlo. Personalmente non aveva mai visto un elefante, ma gli sembrava di capire che fossero animali mostruosi, con una coda davanti oltre quella di dietro. Glielo aveva detto un vagabondo scemita, giurando di averne visti a migliaia nel paese degli Ircani, ma tutti sapevano che razza di bugiardi fossero gli uomini di Shem. E in ogni caso, nella zamora, non c'erano elefanti. Il fusto splendente della torre si innalzava gelido sullo sfondo delle stelle. Di giorno rifletteva il sole con tale violenza che pochi potevano sopportarne la vista. La gente diceva che fosse fatta d'argento. Era un cilindro perfetto, alto 50 metri, con l'orlo superiore tempestato di gemme che rifulgevano alla luce delle stelle. La torre si trovava tra gli alberi di un giardino esotico, sopraelevato rispetto al resto della città. Un muraglione circondava il giardino e al di qua di esso correva un'elevazione più modesta, cinta da un altro muro. Non si vedevano luci e non pareva che la torre avesse finestre, almeno non sopra il livello del muro interno. Solo i gioielli incastonati sull'orlo rimandavano il chiarore delle stelle. Intorno al muro esterno, più basso, crescevano arbusti e cespugli. Il cimmero si fermò davanti alla barriera, misurandola a occhio. Era alta, ma bastava fare un salto e afferrare la sommità con le dita. Poi sarebbe stato un gioco tirarsi su e scavalcare. Con lo stesso sistema avrebbe affrontato il muro interno. Esitò un momento, pensando agli strani pericoli di cui aveva sentito parlare. La gente di Zamora era misteriosa e strana. Non apparteneva alla sua razza e non aveva lo stesso sangue dei popoli occidentali che abitavano in Britunia, Nemedia, Aquilonia e Kot, i cui civilissimi misteri lo avevano stupito in passato. La stirpe di Zamora era molto antica e, da quello che il cimmero poteva giudicare, molto malvagia. Pensò a Yara, il gran sacerdote, che intesseva magie nella torre ingioiellata, e a un tratto gli venne in mente una storia raccontata da un paggio di corte ubriaco. Una storia da far rizzare i capelli in testa. Secondo quel tale, Yara si era presentato a un principe nemico e gli aveva riso in faccia. Poi, tenendogli davanti una gemma che brillava di luce malefica, ne aveva fatto scaturire un raggio sacrilego. Il principe, avvolto in un alone di luce, si era abbattuto al suolo, gridando, e si era ridotto a un troncone carbonizzato. Poi il troncone aveva preso l'aspetto di un ragno nero e si era dato a una corsa disperata, fino a che Yara lo aveva schiacciato. Il sacerdote non usciva spesso dalla torre magica, ma quando lo faceva era sempre per scagliare un maleficio su un uomo o una nazione. Il re di Zamora lo temeva più della morte ed era perennemente ubriaco perché da sobrio non riusciva a sopportare la paura. Yara era molto vecchio, secoli, diceva la gente, aggiungendo che sarebbe vissuto in eterno grazie alla magia del gioiello che gli uomini chiamavano il cuore dell'elefante. La ragione di questo attributo non era chiara, come non era chiaro il motivo per cui avevano battezzato la torre in quel modo. Il cimmero, immerso nei pensieri, si avvicinò al muro con cautela. All'interno del giardino si era mosso qualcuno che avanzava a passi misurati. Il giovane sentì un rumore metallico. Così, dopo tutto, una guardia c'era. Il cimmero aspettò che passasse di nuovo. Ma sul giardino misterioso regnava il silenzio. Finalmente la curiosità ebbe la meglio e l'intruso fece un salto, aggrappandosi al muro. Poi si issò alla sommità con un braccio. Per qualche istante rimase immobile in cima al muro esterno e osservò il tratto di terreno che lo divideva da quello interno. Non c'erano arbusti, ma nei pressi dell'altro muro vide dei cespugli ben potati. La luce delle stelle cadeva sul pendio regolare e da qualche parte si sentiva il rumore di una fontana. Il cimmaro si calò cautamente dall'altra parte ed estrasse la spada guardandosi intorno. Era teso come un animale selvatico costretto a muoversi allo scoperto e avanzò a passo leggero intorno alla curva del muro seguendo la sua ombra. Finalmente arrivò nei pressi dei cespugli che aveva notato. Corse rapidamente in quella direzione, piegato a metà, e per poco non inciampò su qualcuno che stava acquattato all'ombra del fogliame. Una rapida occhiata, a destra e a sinistra, gli mostrò che non c'erano nemici e si chinò sul corpo dello sconosciuto per indagare. Anche alla luce fioca delle stelle non ci si poteva sbagliare. Il cadavere era quello di un uomo robusto con l'armatura d'argento e l'elmo piumato della Real Guardia Zamorana. Scudo e lancia giacevano nei pressi e ci volle un attimo per capire che era stato strangolato. Il barbaro si guardò intorno a disagio. Sapeva che quell'individuo era la sentinella che lui aveva sentito passare. L'intervallo era stato brevissimo, eppure le mani di un assassino sconosciuto avevano colpito nel buio. Sforzandosi di scrutare nel buio, il cimmaro colse un movimento tra i cespugli ai piedi del muro. Scivolò in quella direzione con la spada in pugno. Non faceva più rumore di una pantera che avanza nella notte. Ma l'altro lo sentì. Il cimmero intravide una sagoma poderosa, ma se non altro scoprì con sollievo che era umana. Poi lo sconosciuto si girò di scatto, con un gemito di paura, e fece l'atto di lanciarsi su di lui, le mani pronte a strangolare un secondo avversario. Si trattenne all'ultimo momento, quando la luce delle stelle brillò sulla spada del cimmero. Per un lungo momento... Qui Bebevio, da Genova. Il signor Parodi ha cambiato fornitore di energia. Ha scelto Sorgenia. Come mai? Bebe, sono genovese doc e con Sorgenia ho tutto. Gas, fibra, energia verde con prezzo della materia prima bloccato per 2 anni. 2 anni. In più sconto di benvenuto. 150 euro spalmati in 12 bollette. Bebe, Genova e Sorgenia parlano la stessa lingua. Acceleriamo la transizione energetica in ogni modo. Termini e condizioni su sorgenia.it. Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Locauto ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Locauto, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su locautorent.com. Momento, nessuno dei due parlò. Pronti com'erano a qualunque evenienza. «Tu non sei una sentinella!» sibilò finalmente lo straniero. «Sei un ladro come me!» «E chi saresti?» chiese il cimmero in un sussurro ancora sospettoso. «Tauro, di Nemedia!» Il cimmero abbassò la spada. «Ho sentito parlare di te. Gli uomini ti considerano un principe dei ladri!» Per tutta risposta gli arrivò una bassa risata. Tauro era alto come il cimmero e più pesante, aveva una pancia considerevole e si poteva definire grasso, ma ogni movimento tradiva un sottile e dinamico magnetismo che si rifletteva negli occhi acuti, luccicanti di vitalità, anche sotto le stelle. Camminava a piedi nudi e aveva con sé un rotolo di corda robusta e sottile, annodata a intervalli regolari. «Tu come ti chiami?» mormorò. «Conan, e sono un cimmero», rispose l'altro. «Sono venuto a studiare il modo per rubare il gioiello di Yara, quello che gli uomini chiamano cuore dell'elefante». Conan si rese conto che il gran ventre dell'uomo tremava dalle risa, ma non c'era traccia di disprezzo nei suoi confronti. «In nome di Bel, dio dei ladri!» sibilò Tauro. «Credevo di essere l'unico che ne avesse il coraggio. Questi zamorani si considerano ladri. Bah! Conan, mi piace la tua tempra. Non ho mai diviso un colpo con qualcun altro, ma in nome di Bel, se vuoi, possiamo continuare insieme». «Quindi anche tu cerchi il gioiello?» «Che altro se no? Ho fatto piani per mesi, ma credo che tu, amico mio, abbia agito sull'impulso del momento». «Hai ucciso tu il soldato?» «Naturalmente. Mi sono calato dal muro quando lui si trovava dall'altra parte del giardino e mi sono nascosto fra i cespugli. Quello mi ha sentito o ha creduto di sentire qualcosa. Quando mi è arrivato a tiro non è stato difficile andargli alle spalle e strangolarlo da quell'imbecille che era. Come la maggior parte degli uomini era mezzo cieco al buio. Un buon ladro deve avere gli occhi di un gatto. Hai fatto un errore, disse Conan. Gli occhi di Tauro ebbero un lampo d'ira. Io un errore? Impossibile! Avresti dovuto trascinare il corpo fra i cespugli. Così ha deciso il novizio, eh? Non cambieranno la guardia fin dopo mezzanotte, e se qualcuno dovesse venire a cercarlo e trovasse il cadavere, farebbe immediatamente rapporto a Yara e ci darebbe il tempo di scappare. Se invece non lo trovassero, aprirebbero una battuta di caccia e ci prenderebbero come sorci in gabbia. Hai ragione, convenne Conan. Infatti, ora non perdiamo tempo in discussioni. Nel giardino interno non ci sono guardie umane, ma c'è qualcosa di molto più tremendo. È proprio a causa di questo rischio che ho rimandato il colpo tanto a lungo, ma alla fine ho scoperto il modo di superarlo. E i soldati alla base della torre? Il vecchio Yara abita nelle stanze superiori. Per quella via noi entreremo e usciremo, spero. Non chiedermi come, ho un sistema. Ci caleremo dalla cima della torre e strangoleremo Yara prima che possa scagliare uno dei suoi maledetti incantesimi. Almeno ci proveremo. È il rischio di essere trasformati in ragni o in rospi contro le ricchezze e il potere del mondo. Ogni buon ladro deve accollarsi i suoi rischi. Io sono pronto, disse Conan togliendosi i sandali. Allora seguimi. Tauro gli girò la schiena e fece un balzo, afferrandosi al muro. Poi si tirò su, dimostrando un'agilità eccezionale per la sua mole. Sembrava che scivolasse sul bordo della parete. Conan lo seguì e una volta arrivati in cima ripresero a parlare a bassa voce. «Non vedo luci», mormorò il cimmero. La parte bassa della torre era identica alla porzione visibile da oltre il giardino. Un cilindro perfetto, splendente e senza aperture apparenti. «Esistono porte e finestre costruite con molta abilità», ribatté Tauro. «Ma sono chiuse. L'aria che respirano le guardie viene dall'alto». Il giardino era una distesa di ombre incerte, dove cespugli e alberi bassi, ma diffusi, parevano agitarsi nell'oscurità. L'animo guardingo di Conan percepì l'alone di minaccia che gravava sulla scena. Sentiva ardere occhi invisibili e le narici captarono un odore sottile che gli fece rizzare i capelli come a un cane si rizza il pelo all'odore di un vecchio nemico. «Seguimi!» sussurrò Tauro. «E tieni gli occhi su di me, se ti è cara la vita!» Il nemediano prese dalla cintura quello che sembrava un tubo di rame e lo lanciò senza far rumore verso il giardino interno. Conan era vicino a lui, la spada in pugno, ma Tauro lo spinse verso il muro e non mostrò il minimo desiderio di avanzare. Sembrava che aspettasse qualcosa con impazienza e il suo sguardo, come quello di Conan, era fisso sulla vegetazione a pochi metri da lui. Foglie e rami si muovevano, anche se il vento era calato. Poi due grandi occhi splendettero tra le ombre e più indietro altre scintille si accesero nella notte. «Leoni», mormorò Conan. «Sì, di giorno li tengono in una caverna sotto la torre. Ecco perché non ci sono guardie in giardino». Conan contò gli occhi rapidamente. «Ce ne sono cinque. Forse altri si nascondono nella vegetazione. Ci attaccheranno fra un secondo». «Stai zitto», sibilò Tauro allontanandosi dal muro e alzando il tubo metallico con estrema cautela. Dalle ombre si levò un sordo brontolio e gli occhi fiammeggianti avanzarono. A Conan pareva di sentire lo scricchiolio delle grandi mascelle e le code che sferzavano i fianchi pelosi. L'atmosfera si fece tesa, il cimmero strinse la spada e attese l'impatto irresistibile con i corpi giganteschi. Poi Tauro si portò il tubo alle labbra e soffiò con forza. Dall'estremità dell'arnese uscì uno sbuffo di polvere gialla che formò una nuvola dello stesso colore e si posò sulle piante, oscurando gli occhi delle belve. Tauro si affrettò a tornare verso il muro, mentre Conan lo fissava senza capire. La nuvola nascondeva anche le piante e il brontolio dei leoni non si sentiva più. «Che cos'era?» chiese a disagio il cimmero. «La morte!» rispose il Nemediano. «Se si alza il vento e soffia quella roba verso di noi, dobbiamo fuggire di nuovo sul muro. Per fortuna l'aria è tranquilla e la nube si sta dissipando. Aspetta finché sarà scomparsa interamente. Respirarla vorrebbe dire morire». Finalmente rimase nell'aria solo qualche spira giallastra. Quando anche queste furono scomparse, Tauro fece segno al compagno di avanzare. Si immersero nella vegetazione e Conan trasalì. Distese nelle ombre si distinguevano 5 sagome feline. Ma il fuoco degli occhi selvaggi si era spento per sempre. Un odore dolciastro permaneva nell'atmosfera. «Sono morti senza un gemito», mormorò il cimmero. «Tauro, che cos'era quella polvere?» «Era ottenuta dal loto nero che fiorisce nelle giungle perdute del Kitai. Laggiù vivono soltanto i gialli sacerdoti di Yun e i fiori di loto danno la morte a chi li annusa». Conan si inginocchiò accanto ai grandi cadaveri, assicurandosi che non potessero fargli alcun male. Scosse la testa. La magia delle terre esotiche appariva terribile e misteriosa ai barbari del nord. «Perché non uccidiamo i soldati della torre allo stesso modo?» chiese Conan. «Perché quella era tutta la polvere che possedevo. Ottenerla è stata un'impresa che di per sé mi ha reso famoso fra i ladri del mondo. L'ho rubata ad una carovana diretta in Stigia, strappando la borsa d'oro in cui era contenuta alle spire del serpente che la sorvegliava, e non l'ho nemmeno svegliato. Ma vieni, nel nome di Bel, dobbiamo passare tutta la notte in discussioni?» Scivolarono nella vegetazione e giunsero ai piedi della torre. Lì, con un gesto che invitava al silenzio, Tauro srotolò la corda annodata, a un'estremità della quale era assicurato un rampone di ferro. «Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com». Conan capì il piano e non fece domande quando il Nemediano afferrò la corda poco sotto il rampone e cominciò a farla girare nell'aria. Il cimmero appoggiò l'orecchio alla parete levigata e si mise in ascolto, ma non riuscì a sentire niente. A quanto pareva i soldati non sospettavano la presenza di estranei e del resto non avevano fatto più rumore del venticello che soffiava fra gli alberi. Ma il barbaro era in preda a uno strano nervosismo. Forse era l'odore dei leoni che impregnava l'aria. Tauro lanciò la corda con un gesto sicuro e preciso del braccio potente. Il rampone descrisse una parabola verso l'alto e scomparve oltre l'orlo ingioiellato della torre, piegandosi in un modo strano e non facile da descrivere. Sembrava che avesse fatto presa con forza, perché quando il Nemediano gli diede uno strattone non si mosse di un centimetro. «Fortuna al primo colpo!» mormorò Tauro. «Io...» Fu l'istinto selvaggio di Conan a farlo girare di scatto, perché la morte che era arrivata alle loro spalle non faceva rumore. Al cimmero bastò un'occhiata per riconoscere la belva gigantesca che si alzava sulle zampe posteriori verso le stelle, incoronata dalla criniera rossa e pronta a dare il colpo mortale. Nessun uomo civile avrebbe potuto muoversi con la rapidità del barbaro. La spada mandò un baleno di ghiaccio alla luce delle stelle, spinta dalla forza disperata di ogni muscolo e nervo. L'uomo e la belva caddero insieme. Bestemmiando fra i denti, Tauro si chinò verso il groviglio di carne e vide le gambe del compagno che cercavano di sottrarsi al grande peso inerte che gravava su di lui. Con un'occhiata il Nemediano si rese conto, stupefatto, che il leone era morto e che il cranio allungato era spaccato a metà. Afferrò la carcassa e con il suo aiuto Conan la gettò di lato. Poi riuscì ad alzarsi, la spada che gocciolava sangue ancora in pugno. «Sei ferito, amico?» chiese Tauro, ancora sbalordito dalla straordinaria velocità dell'episodio. «No, per Crom», rispose il barbaro. «Ma è stata la chiamata più pericolosa che ho avuto in una vita niente affatto tranquilla. Come mai quella belva maledetta non ha ruggito mentre attaccava?» «È tutto strano in questo giardino», disse Tauro. «I leoni arrivano in silenzio, e così gli altri pericoli. Ma vieni, se i soldati non dormono e non sono ubriachi, è probabile che abbiano sentito qualcosa. Per fortuna è stata una lotta silenziosa. Evidentemente il leone si trovava in un'altra parte del giardino ed è sfuggito alla morte dei fiori. Adesso credo che non ce ne siano più. Dobbiamo arrampicarci su questa corda, ma a un cimmero non c'è bisogno di chiedere se ne è capace.» «Ammesso che regga il mio peso», brontolò Conan pulendo la spada sull'erba. «Reggerebbe un uomo 3 volte più pesante di me», ribatté Tauro. «È stata tessuta con le trecce di donne morte, rubate da me personalmente nelle tombe delle interessate a mezzanotte, ed è impastata con vino di upas per rafforzarla. Andrò per primo, tu seguimi da vicino.» Il nemediano afferrò la corda e, piegato un ginocchio, cominciò la salita. Si arrampicava come un gatto, smentendo l'apparente goffaggine del suo corpo. Il cimmero lo seguì. La corda oscillava e girava su se stessa, ma gli scalatori non si preoccuparono. Entrambi avevano fatto escursioni più pericolose. L'orlo ingioiellato della torre splendeva su di loro, sporgendo dalla perpendicolare della parete. In effetti la corda pendeva circa 30 centimetri dal fianco della torre, rendendo più facile l'ascesa. Continuarono ad arrampicarsi, mentre le luci della città si stendevano sempre più ampi ai loro piedi e le stelle sembravano smorzate dallo splendore delle gemme. Tauro allungò una mano e si aggrappò al bordo della torre, issandosi. Conan si fermò un momento, affascinato dalle grandi pietre che lo abbagliavano. Diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri, turchesi e pietre di luna incastonati nell'argento in una grande quantità, come stelle. A una certa distanza il bagliore delle singole gemme si confondeva e provocava l'effetto di una fiammata bianca, uniforme. Ma ora, da vicino, ognuna brillava col suo colore in un milione di sfumature. Il cimmero era completamente stupefatto. «Qui c'è una fortuna enorme, Tauro», sussurrò. Il nemediano rispose impaziente. «Andiamo! Se riusciamo a impossessarci del cuore, tutto quello che vedi sarà nostro!» Conan scavalcò il parapetto. Il pavimento si trovava qualche decina di centimetri sotto la fascia di gemme e si presentava piatto, di una sostanza blu che rifletteva la luce delle stelle. Somigliava a un grande zaffiro punteggiato d'oro. Poco lontano dal punto in cui si erano calati, sorgeva una specie di stanza costruita sul tetto. Era fatta dello stesso materiale argenteo della torre, abbellita da fregi ricavati da pietre più piccole. La porta era d'oro, con la superficie tagliata a scaglie e incrostata di gemme che splendevano come il ghiaccio. Conan gettò un'occhiata alla distesa pulsante di luci che si stendeva sotto di loro. Poi guardò Tauro. Il nemediano stava arrotolando la corda e ne approfittò per mostrare a Conan il punto in cui il rampino aveva fatto presa. 1 centimetro di parete sulla faccia interna della torre. Aveva ceduto proprio sotto un immenso gioiello. «La fortuna ci ha assistito di nuovo», borbottò Tauro. «Tutto fa credere che sotto il nostro peso combinato il gioiello avrebbe dovuto staccarsi completamente. Seguimi, i veri rischi dell'avventura cominciano adesso. Siamo nella tana del serpente e non sappiamo dove si nasconda.» Si avventurarono come tigri in caccia sul pavimento che brillava e si fermarono davanti alla porta d'oro. Tauro la tentò con destrezza e preoccupazione. La porta cedette senza far resistenza e i due compagni scrutarono all'interno, pronti a tutto. Guardando sulla spalla del nemediano, Conan ebbe la visione di una stanza meravigliosa, dove il pavimento, le mura e il soffitto erano tempestati di gioielli bianchi che la illuminavano a giorno. Non c'erano altri lumi e non si vedeva anima viva. prima di precluderci l'ultima possibilità di fuga», disse Tauro. «Vai al bordo della torre e guarda da tutti i lati. Se vedi dei soldati in giardino o qualsiasi altra cosa sospetta, torna e dimmelo. Ti aspetterò qui dentro». Conan non ne vedeva il motivo e nel suo animo sospettoso nacque qualche dubbio sulle intenzioni del compagno, ma fece come aveva chiesto. Mentre lui si avviava al parapetto, il nemediano scivolò nella stanza e si chiuse la porta alle spalle. Conan si sporse, ma non vide movimenti nel fogliame, che stormiva appena. Si girò verso la porta e in quel momento, dall'interno della stanza, risuonò un grido strozzato. Il cimmaro si precipitò in quella direzione, allarmato, e la porta si spalancò. Tauro spiccava sullo sfondo abbagliante della stanza. Oscillò e aprì le labbra, ma dalla gola uscì solo un rantolo. Reggendosi alla porta d'oro per non cadere, avanzò di un passo o due sul tetto e poi stramazzò stringendosi la gola. La porta si richiuse alle sue spalle. Tauro! Nei pochi secondi in cui l'uscio era rimasto aperto, Conan, guardingo come una pantera in trappola, non aveva visto niente di anormale, a meno che l'ombra furtiva che gli era parso di vedere sgusciare sul pavimento fosse qualcosa di più che un gioco di luce. Nessuno aveva seguito Tauro sul tetto e Conan si chinò sopra di lui. Il nemediano aveva gli occhi dilatati e vitrei e l'ultima espressione era stata di terribile stupore. Rantolava ancora, le mani strette intorno alla gola, ma un attimo dopo si irrigidì. Il cimmero si rese conto che era morto e che non aveva fatto in tempo a capire che cosa lo avesse ucciso. Conan fissò stupefatto la grande porta d'oro. Nella stanza deserta e con le pareti tempestate di gioielli, la morte era scesa sul principe dei ladri con la stessa velocità e segretezza di quella che aveva dato ai leoni. Preoccupato, il barbaro fece correre una mano sul corpo nudo in cerca di una ferita, ma gli unici segni di violenza si trovavano in mezzo alle spalle, alla base del collo taurino. Tre piccole punture che sembravano l'effetto di altrettanti aghi. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Infilati nella pelle e poi estratti. L'orlo delle ferite era nero e si avvertiva un debole odore di putrefazione. «Frecce avvelenate?» si chiese Conan. «Ma in tal caso avrebbero dovuto trovarsi ancora sul corpo». Scivolò cautamente verso la porta d'oro. La spinse e guardò dentro. L'ambiente era deserto e inondato dal bagliore pulsante di mille gioielli. In mezzo al soffitto il cimmero notò oziosamente uno strano disegno, un ottagono nero al centro del quale brillavano quattro gemme completamente diverse dalle altre. All'estremità opposta della stanza c'era una seconda porta, simile a quella da cui era entrato, ma non istoriata. Era da lì che si era introdotta la morte e dopo aver colpito la prima vittima si era ritirata per la stessa via. Chiudendosi la porta alle spalle, il cimmaro avanzò nella sala. I suoi piedi non facevano alcun rumore sul pavimento di cristallo. Non c'era mobilia vera e propria, a parte tre o quattro divani di seta tra punti d'oro e ornati da misteriosi disegni a serpentina. Qualche baule di mogano con i fermagli d'argento completava l'arredamento. A guardar bene, i fermagli di alcuni bauli erano d'oro e altri erano aperti, rivelando agli occhi stupefatti del cimmaro mucchi di pietre preziose ammassati a casaccio. Conan bestemmiò fra i denti in una notte aveva visto più ricchezze di quante pensava esistessero al mondo. Quanto valeva il gioiello di cui era in cerca? C'era da farsi venire il capogiro. Il cimmaro si trovava al centro della stanza e procedeva a curvo, la testa piegata cautamente e la spada protesa. Poi, per la seconda volta, la morta attaccò senza far rumore. L'unico avvertimento fu un'ombra velocissima che volò sul pavimento in un treno e che Conan evitò con un salto laterale. Quella mossa gli salvò la vita e gli permise di vedere la nera, pelosa mostruosità che lo superava con uno scatto delle mandibole. Un liquido che bruciava come l'inferno gli schizzò sulla spalla. Con un balzo indietro e alzando la spada istintivamente, Conan vide la bestia atterrare sul pavimento, girare su se stessa e puntare su di lui a tremenda velocità. Era un ragno nero, immenso, come se ne vedono negli incubi. Grande quanto un maiale, si muoveva sulle 8 zampe pelose, capaci di trasportare il corpo a incredibile velocità. 4 occhi gialli e malefici brillavano di orribile intelligenza. Le zampe stillavano un veleno che, a giudicare dal bruciore alla spalla, dove il cimmaro era stato colpito da una quantità minima, doveva dare una morte istantanea. Era questo l'assassino che, usando un filo di ragnatela, si era calato dal soffitto sul collo del Nemediano. Come erano stati stupidi a non sospettare che le stanze superiori fossero sorvegliate come le inferiori. Questi pensieri passarono nella mente di Conan come un lampo, mentre il mostro caricava. Il barbaro fece un salto e la creatura passò sotto di lui. Ma un attimo dopo si girò e caricò di nuovo. Conan evitò l'attacco con un rapido spostamento di lato e riuscì a restituire il colpo. La spada tranciò una delle zampe pelose e lui si salvò per un capello dall'impennata del bruto. Le zanne scattarono paurosamente, ma il ragno, per il momento, rinunciò all'inseguimento. Si girò, attraversò il pavimento di cristallo col suo orribile trotterellare e, arrampicandosi sul muro, tornò al nascondiglio sul soffitto. Lì si rannicchiò per qualche istante, fissando l'uomo con occhi fiammeggianti. Poi, senza preavviso, si lanciò nello spazio, trascinando con sé un filamento di materia grigia. Conan fece un passo indietro per evitare l'impatto e si abbassò disperatamente, sfuggendo alla ragnatela volante. Aveva capito le intenzioni del mostro e si precipitò verso l'uscita, ma quello fu più veloce e un filamento appiccicoso aderì alla porta, rendendolo prigioniero. Conan non osava tagliare il filo con la spada. Sapeva che si sarebbe attaccato alla lama e prima che potesse liberarla, il ragno gli avrebbe immerso le zanne nel collo. Cominciò un gioco disperato, in cui la prontezza e l'astuzia dell'uomo si misuravano con la volontà e la velocità del ragno gigantesco. Il mostro non tentava più di avvicinarsi direttamente o di piombargli addosso dall'alto. Preferiva correre sulle pareti e il soffitto, tentando di avvolgerlo in lunghissimi fili di ragnatela vischiosa che lanciava con micidiale precisione. Ogni filo era spesso come una corda, e Conan sapeva che una volta imprigionato, nemmeno la sua forza disperata lo avrebbe liberato in tempo. Il balletto diabolico continuò per tutta la sala, in silenzio. Si udivano soltanto il respiro affannoso del barbaro, il trapestio sul pavimento di cristallo e lo scatto delle zanne. I filamenti grigi si depositavano sul pavimento in grandi spire, ondeggiavano alle pareti e pendevano dal soffitto, come terribili festoni sui bauli colmi di gioielli e sui divani di seta. L'occhio e i muscoli di Conan, scattanti come una trappola di ferro, lo avevano salvato fino a quel momento dal contatto con il mostro e la sua ragnatela. Ma i fili pendevano sempre più vicini e gli sfioravano la pelle. Il barbaro sapeva che non poteva evitarli in eterno e doveva stare attento contemporaneamente a quelli che piovevano dall'alto e a quelli ammucchiati sul pavimento per non inciampare. Presto o tardi, una spira appiccicosa gli si sarebbe attaccata addosso come un serpente. Allora, intrappolato come un insetto, sarebbe stato alla mercé del ragno. La bestia continuava a sfrecciare sul pavimento della stanza, tessendo il filamento grigio alle sue spalle. Conan fece un salto, scansò un divano e il mostro salì rapidissimo sul muro. poi il nastro grigio si alzò dal pavimento come una cosa viva e si afferrò alla caviglia del cimmero. Nel cadere Conan mise le mani avanti e si ritrovò sempre più invischiato. La ragnatela lo stringeva come una pianta carnivora o come le spire di un pitone. Il mostro correva sulle pareti per completare la cattura e Conan, ridotto alla disperazione, afferrò un baule colmo di gioielli e lo scagliò con tutta la sua forza. Era una mossa che il ragno non si era aspettato e il baule lo colpì in pieno torace, schiacciandolo contro la parete con uno schianto disgustoso. Schizzarono sangue e un icore verdastro. Poi il corpo lacerato cadde sul pavimento. L'animale nero e schiacciato giaceva nel fulgore di gioielli che gli si erano rovesciati addosso. Le zampe pelose si mossero inutilmente per qualche secondo e gli occhi scintillarono sempre più deboli fra le gemme. Conan si guardò intorno, ma non c'erano altri pericoli e si dedicò al compito di uscire dalla ragnatela. La sostanza grigia si attaccava tenacemente alle mani e alle caviglie, ma alla fine il cimmero fu libero. Raccolta la spada, si avviò verso la seconda porta. Ignorava quali orrori lo aspettassero, ma il sangue gli si era riscaldato e dopo aver affrontato tanti rischi, decise di andare fino in fondo alla terribile avventura. Sentiva che il gioiello di cui era alla ricerca non era fra quelli ammucchiati casualmente nella sala. Tagliati i fili che imbrattavano la seconda porta, Conan scoprì che, come la prima, non era chiusa. Si domandò se i soldati fossero ancora all'oscuro della sua presenza. Per fortuna si trovava ben al di sopra delle loro teste e, se bisognava credere alle storie, erano abituati ai rumori notturni della torre. Rumori agghiaccianti, urla di dolore e di terrore. Il cimmero pensava a Diara e non si sentiva del tutto tranquillo, ma quando aprì la seconda porta trovò una rampa di scale d'argento e nient'altro. La rampa portava verso il basso ed era debolmente illuminata da una fonte che Conan non riuscì a individuare. Scese con cautela, impugnando la spada. Non c'erano rumori e alla fine si trovò davanti a una porta d'avorio tempestata di pietre rosso sangue. Rimase in ascolto, ma dall'interno non veniva il minimo rumore. Da sotto la porta, tuttavia, usciva un filo di fumo che attirò l'attenzione del cimmero per il suo odore esotico. Sotto di lui la scala d'argento scompariva nel buio e in alto non si muoveva foglia. Conan ebbe la sgradevole sensazione di essere solo in una torre popolata di spettri e fantasmi. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Premette cautamente la porta d'avorio e la sentì cedere. Conan si fermò sulla soglia come un lupo e ispezionò lo strano ambiente che lo circondava, pronto a combattere o a fuggire all'istante. Si trovava in una grande sala con il soffitto a volta d'oro. Le pareti erano di giada verde e il pavimento d'avorio in gran parte coperto da spessi tessuti. Fumo e profumi di incenso si levavano da un braciere collocato su un tripode d'oro, dietro il quale sorgeva un idolo poggiato su una specie di letto di marmo. Conan lo guardò sbalordito. Il corpo era quello di un uomo nudo, ma di color verde. La testa era un incubo sgorgato dalla follia. Troppo grande per il corpo umano, non aveva nessun attributo dell'umanità. Conan notò le grandi orecchie e la proboscide curva, ai lati della quale spiccavano due zanne bianche sormontate da sfere d'oro. Gli occhi erano chiusi, come se l'idolo dormisse. Ecco perché la chiamavano Torre dell'Elefante. La testa della creatura era molto simile a quella della bestia descritta dallo Scemita. Si trattava evidentemente della divinità di Yara. E dove poteva trovarsi il gioiello se non dentro la statua? Non per niente lo chiamavano il cuore dell'elefante. Mentre Conan si avvicinava all'idolo, senza perderlo di vista un secondo, gli occhi della statua si aprirono all'improvviso. Il cimero si bloccò dov'era. Non era un idolo, era un essere vivente, e lui era intrappolato nella sua tana. Il fatto che non si abbandonasse a uno scoppio di furia omicida dimostra il terrore di Conan, che era completamente paralizzato. Un uomo civile al suo posto avrebbe cercato dubbia consolazione nell'idea di essere diventato pazzo, ma il cimmero non dubitava dei suoi sensi. Sapeva di avere a che fare con un demone del mondo antico e questa consapevolezza lo privava di ogni facoltà all'infuori della vista. Il busto della creatura di incubo si eresse e gli occhi color topazio guardarono senza vedere. Conan capì che il mostro era cieco. Per i suoi nervi fu come un toccasana e lentamente cominciò ad arretrare verso la porta. Ma la creatura lo sentì. Il busto sensibilissimo si mosse dalla sua parte e il barbaro provò un brivido ancor più profondo quando l'essere cominciò a parlare. La voce era strana, esitante e non cambiava timbro né tono. Conan si rese conto che la sua bocca non era fatta per pronunciare linguaggi umani. Chi è? Sei venuto a torturarmi ancora, Yara. Non la smetterai mai. Oh, Yakosha, non c'è fine al dolore. Dagli occhi ciechi sgorgarono le lacrime e lo sguardo di Conan si spostò sulle membra appoggiate al letto di marmo. Era evidente che il mostro non avrebbe potuto alzarsi e attaccarlo. Il cimmero riconobbe il marchio della frusta e quello del fuoco e, benché fosse un duro, rimase agghiacciato alla vista dei moncherini straziati che una volta erano stati arti come i suoi. Improvvisamente la paura e il disgusto lo abbandonarono, sostituiti da una grande pietà. Non sapeva che razza di creatura fosse, ma le prove delle sue sofferenze erano così terribili e patetiche che una tristezza profonda calò sul cimmero. Una cosa era certa: davanti a lui si trovava il risultato di una tragedia cosmica e la vergogna lo oppresse, come se la colpa di un'intera razza pesasse su di lui. «Io non sono Yara», disse il cimmero. «Sono solo un ladro e non ti farò del male». «Avvicinati, voglio toccarti», balbettò la creatura. Conan obbedì senza paura. Aveva ancora la spada in mano, ma era come se l'avesse dimenticata. Il busto dell'essere misterioso si piegò verso di lui e gli sfiorò il volto e le spalle. Era il gesto tipico di un cieco, e il suo tocco era leggero come la mano di una ragazza. «Tu non appartieni alla razza di demoni che ha partorito Yara», sospirò la creatura. «Sento la fierezza pulita e trasparente delle terre selvagge in te. Conosco il tuo popolo da moltissimo tempo, anche se allora portava un altro nome. Del resto, a quell'epoca un altro mondo stendeva le sue muglie sotto le stelle. Ma le tue dita sono macchiate di sangue». «Un ragno nella sala superiore e un leone in giardino», disse Conan. «Hai ucciso anche un uomo stanotte», ribatté l'altro. «Avverto la morte in cima alla torre. Io so, io sento». «Già», borbottò Conan. «Il principe dei ladri è stato ammazzato da un morso di un insetto». «Certo, certo». La voce misteriosa, inumana, pareva salmodiare una specie di canto. «Un assassino alla taverna e un assassino sul tetto. Io so, io sento. E il terzo compirà la magia di cui nemmeno Yara sa niente. la magia della liberazione, verdi divinità di Yag. Sgorgarono altre lacrime, mentre il corpo torturato oscillava nella stretta di varie emozioni. Conan continuò a guardare, al colmo dello stupore. Poi le convulsioni cessarono e gli occhi dolci, senza vista, sembrarono puntarsi sul cimmero. Il busto della creatura ondeggiò verso di lui. «Ascoltami, uomo», disse l'essere misterioso. «Ti sembro orribile e mostruoso, non è così? No, non rispondere, io so. Ma se potessi vederti, anche tu mi sembreresti un mostro. Ci sono molti mondi al di là della Terra e la vita prende molti aspetti. Non sono né un dio né un demone, ma un essere di carne e sangue come te, anche se la materia di cui siamo fatti è diversa e la forma è modellata in un altro stampo. Sono molto vecchio, uomo dei paesi barbari. Moltissimo tempo fa sono arrivato su questo pianeta con altri del mio mondo, il verde Yag, che gira in eterno ai confini dell'universo. Trasvolammo lo spazio su ali portentose che ci permisero di attraversarlo più veloci della luce. Fuggivamo perché avevamo combattuto i sovrani di Yag ed eravamo sconfitti, paria. Non saremmo mai potuti tornare perché sulla Terra le ali si avvizzirono sulla nostra schiena e dovemmo rassegnarci a vivere qui senza farci notare dagli abitanti del vostro mondo. Combattemmo le terribili forme di vita che a quell'epoca regnavano sulla Terra e avendole sconfitte fummo temuti e rispettati. Ci stabilimmo nelle giungle oscure dell'Oriente, dove sorse la nostra nuova casa. Vedemmo l'uomo evolversi dalle scimmie e costruire le città splendenti di Valusia, Camelia, Cammoria e le loro sorelle. Ma le città caddero sotto i colpi dei barbari di Atlantide, dei Pitti e dei Lemuriani. Assistemmo al gonfiarsi degli oceani, alla fine di Atlantide e Lemuria, delle isole dei Pitti e delle meravigliose città civili. I sopravvissuti di Atlantide e del regno dei Pitti costruirono i loro imperi dell'età della pietra, e anche di questo fummo testimoni. Poco dopo, quei regni primitivi sprofondarono nella rovina di guerre sanguinosissime. I Pitti toccarono il fondo della devoluzione, e gli Atlantidi regredirono ancora una volta allo stato scimmiesco. Vedemmo nuovi barbari che dal circolo polare artico si spingevano a sud in ondate conquistatrici per costruire una nuova civiltà. È quella attuale, suddivisa nei regni di Nemedia, Kot, Aquilonia e le altre nazioni iboriane. Vedemmo il tuo popolo emergere sotto un nuovo nome dalle giungle popolate di scimmie, le stesse che una volta, elevatesi a livello umano, avevano abitato Atlantide. I discendenti dei Lemuriani, anch'essi sopravvissuti al cataclisma, si sollevarono dalle barbarie e invasero l'Occidente col nome di Irkani. Poi un'altra razza di demoni tornò alla cultura e al potere, i superstiti delle civiltà antidiluviane che ora abitano questo maledetto regno di Zamora. Di tutto ciò fummo testimoni, senza favorire né impedire l'immutabile legge cosmica. E col tempo morimmo uno ad uno. Noi di Yag non siamo immortali, anche se le nostre vite si possono paragonare a quelle dei pianeti e delle costellazioni. Alla fine, solo io rimasi a sognare dei vecchi tempi nei santuari in rovina del Kitai, sepolto fra le giungle. Un'antica razza di uomini gialli mi adorava come se fossi un dio. Poi arrivò Yara, versato nelle arti nere che si erano trasmesse dai giorni delle barbarie e da prima che Atlantide si inabissasse. In un primo tempo sedette ai miei piedi e apprese ciò che sapevo, ma non gli bastava ciò che avevo da insegnargli, perché era magia bianca. Yara voleva le conoscenze proibite, quelle che permettono di rendere schiavi i re e di soddisfare le ambizioni sfrenate. Ma non ero disposto a insegnargli i neri segreti che mio malgrado avevo appreso nei millenni. Quel farabutto, tuttavia, sapeva più di quanto pensassi. Con un maleficio che aveva imparato tra le fosche tombe di Stigia, mi costrinse a rivelare un segreto che non avevo avuto intenzione di dirgli. Poi, rivolto il mio potere contro di me, mi fece schiavo. Ah, dei di Yag, da quel momento ne ho bevuto fiele. Mi ha portato qui dalle perdute giungle del Kitai, dove scimmie grigie danzavano al suono del flauto dei preti gialli e dove non mancavano offerte di frutta e vino ai miei altari infranti. Non sarei stato più il dio di un popolo sereno della giungla, ma lo schiavo di un demone in vesti umane. Nuove lacrime spuntarono dagli occhi ciechi. Mi rinchiuse in questa torre, che per suo ordine costruì in una sola notte. Mi rese schiavo della frusta e del fuoco e di torture ultraterrene che non capiresti. Se avessi potuto, già da molto tempo avrei distrutto la mia vita perché soffrivo troppo. Ma Yara, pur avendomi accecato, piegato e mutilato, mi teneva vivo per obbedire ai suoi empi comandi. Per 300 anni ho fatto la sua volontà, seduto su questo letto di marmo, macchiando la mia anima di peccati cosmici e il mio sapere di crimini orrendi, ma non avevo altra scelta. Per fortuna non è riuscito a strapparmi tutti i segreti e il mio ultimo regalo sarà la magia del sangue e del gioiello. Sento che si avvicina la fine del mio tempo e tu sei la mano del destino. Ti prego, prendi la gemma che troverai su quell'altare. Conan si voltò verso l'ara d'oro e di avorio cui alludeva la creatura. C'era un grande gioiello sferico, limpido come un cristallo scarlatto, e il cimero lo prese e seppe che era il cuore dell'elefante. E adesso la grande magia, la potente magia che la Terra non ha mai conosciuto e non vedrà neppure fra milioni e milioni di secoli. Con il mio sangue la invoco, col sangue del gran seno verde di Yag, il pianeta che sogna remoto nelle immense vastità azzurre dello spazio. Prendi la spada, uomo, e strappami il cuore. Poi premilo in modo che il sangue scorra sulla gemma rossa. Fatto questo, scendi fino alla stanza d'Ebano dove Yara è avviluppato dai sogni malefici del loto. Pronuncia il suo nome e si sveglierà. Poi mettigli davanti il gioiello e recita: Yag Kosha ti manda un ultimo dono e un incantesimo. A questo punto dovrai uscire in fretta dalla torre, ma non temere, la strada sarà sgombra. La vita dell'uomo non assomiglia alla vita di Yag, e la morte dell'uomo non ha niente a che fare con la nostra morte. Liberami da questa gabbia di carne cieca e torturata e io sarò di nuovo Yoga di Yag, incoronato dal mattino e splendente, con ali per volare, piedi per danzare, occhi per vedere e mani per spezzare. Conan si avvicinò incerto e Yag Kosha, o Yoga, avvertendo la sua incertezza, indicò il punto in cui doveva colpire. Conan strinse i denti e affondò la spada. Il sangue corse sulla lama e sulla mano del barbaro, mentre il mostro, dopo uno spasimo convulso, si adagiava immobile. Certo che la vita lo avesse abbandonato, almeno la vita come lui la intendeva, Conan si mise all'opera per compiere il suo macabro dovere e ben presto estrasse qualcosa che doveva essere il cuore della creatura, per quanto fosse diverso da tutti quelli che aveva visto. Avvicinò l'organo ancora pulsante al gioiello e lo strinse con tutte e due le mani. Una pioggia di sangue bagnò la pietra. Con sua sorpresa, tuttavia, il sangue non colò a terra, ma fu assorbito dalla gemma come acqua da una spugna. Facendo attenzione al misterioso talismano, il cimmero uscì dal fantastico salone e si avviò alla scala d'argento. Non si guardò indietro. Sapeva istintivamente che nel corpo adagiato sul letto di marmo si stava verificando una trasformazione e che non era dato contemplarla ad occhi umani. Chiuse la porta d'avorio alle sue spalle e discese i gradini d'argento senza esitazione. Neanche per un attimo pensò di ignorare le istruzioni che aveva ricevuto e si fermò davanti ad una porta d'ebano al centro della quale ghignava un teschio d'argento. Con una spinta la aprì e si trovò in una stanza d'ebano e giaietto in cui un uomo alto e magro dormiva su un letto di seta nera. Yara, il sacerdote stregone, giaceva davanti a lui con gli occhi aperti e dilatati dai fumi del loto giallo. Lo sguardo, perduto in lontananza, sembrava contemplare abissi e paesaggi notturni oltre la comprensione umana. Yara! Disse Conan come un giudice che pronuncia la condanna. Svegliati! Immediatamente gli occhi si schiarirono, diventando freddi e crudeli come quelli di un avvoltoio. L'uomo alto e coperto di seta si alzò, torreggiando sul cimmero. Cane! Sibilò con il tono di un cobra. Che cosa fai qui? Conan posò il gioiello su un tavolo d'ebano. Colui che mi ha dato questa gemma mi ha chiesto di dire: Yag Kosha ti manda un ultimo dono e un incantesimo. Yara fece un balzo indietro e il volto scuro diventò pallido come la cenere. Il gioiello non era più limpido come cristallo, ma si era fatto scuro e sembrava che pulsasse, solcato da strane ondate di colore che ne attraversavano la superficie come fumoni. Yara, come ipnotizzato, si piegò sul tavolo e strinse il gioiello fra le mani, scrutandone il centro misterioso. Era come un magnete che attirasse l'anima dello stregone fuori dal corpo, e Conan, che seguiva la scena, pensò che gli occhi gli stessero giocando uno scherzo. Infatti, quando Yara si era alzato dal letto, era sembrato altissimo, ma ora la testa del mago gli arrivava alla spalla. Il cimmero aprì e chiuse gli occhi, sorpreso, e per la prima volta quella notte dubitò dei propri sensi. Poi, con un brivido, si rese conto che il sacerdote era rimpicciolito e continuava a diventare più piccolo sotto il suo sguardo. Guardava con un senso di distacco, come un uomo segue a teatro una commedia, immerso in un'atmosfera di schiacciante irrealtà. Il cimmero non era sicuro nemmeno della propria identità. Sapeva soltanto di assistere alle manifestazioni esterne di forze invisibili e appartenenti a sfere esterne, al di là della sua comprensione. Yara non era più grande di un bambino e, come un bambino, annaspò sul tavolo a quattro zampe, sempre stringendo il gioiello. Finalmente aveva capito il destino che lo aspettava, perché fece un salto e lasciò la gemma, ma continuava a rimpicciolire. E Conan vide il corpicino esile da pigmeo correre disperatamente sulla superficie del tavolo, agitando le braccia e urlando con una voce che era simile al frinire di un grillo. Si era fatto talmente piccolo che rispetto alle sue proporzioni il gioiello sembrava alto come una collina, e Conan lo vide coprirsi gli occhi con le mani, come a proteggersi dallo splendore insopportabile. Intanto continuava a muoversi come un pazzo. Conan capì che un'invisibile forza magnetica attirava lo stregone verso la gemma. Per tre volte Yara descrisse disperatamente cerchi concentrici, sempre più stretti, e per tre volte tentò di cambiare direzione o addirittura di gettarsi dal tavolo. Poi, con un urlo che alle orecchie dell'osservatore arrivò debolissimo, Yara alzò le braccia e si precipitò verso il globo fiammeggiante. Conan si chinò per seguire meglio la scena e vide che il sacerdote si arrampicava sulla superficie liscia e curva con estrema fatica, come un uomo che tenti di scalare una montagna di cristallo. Finalmente arrivò in cima, sempre con le braccia protese, e bestemmiò chissà quali nomi spaventosi. All'improvviso sprofondò nel cuore del gioiello, come un uomo che affondi nel mare e onde lattiginose si richiusero sulla sua testa. Adesso Conan lo vedeva al centro della gemma, tornata limpida come il cristallo, e gli sembrava che la scena, nella sua piccolezza, si svolgesse a grande distanza. Ma nel cuore era sopraggiunta un'altra creatura, con il corpo verde simile a quello di un uomo, due ali sul dorso e la testa d'elefante. Non era più né cieca né mutilata. Yara alzò le braccia e cominciò a correre come un pazzo, seguito dal Vendicatore. Poi, come una bolla che scoppia, il gran gioiello scomparve in un arcobaleno di colori iridescenti e la superficie del tavolo rimase nuda e deserta. Nuda, Conan lo sapeva, come il tetto di marmo nella stanza superiore dove per tanto tempo era rimasto imprigionato l'essere transcosmico conosciuto come Yagkosha Yoga. Il cimmero fuggì dalla camera da letto del mago e seguì i gradini d'argento. Era così confuso che non pensò di uscire per la stessa via da cui era entrato. Ai piedi delle scale trovò un ambiente più largo e si fermò per un minuto. Era la stanza delle guardie. Conan vide le corazze luccicare, le pietre sull'impugnatura delle spade mandare barbigli. Gli uomini erano seduti intorno a una tavola apparecchiata e sulle teste coperte dagli elmi i pennacchi ondeggiavano cupamente. Giacevano intorno ai dadi e ai bicchieri caduti sul pavimento di lapislazzuli macchiato di vino. E il cimmero capì che erano morti. La promessa era stata mantenuta, la parola onorata. Se le baldorie della truppa fossero state troncate dalla magia o da un paio di grandi ali verdi, Conan non poteva dirlo. Ma la via era effettivamente sgombra. Una porta d'argento socchiusa inquadrava le prime luci dell'alba. Il cimmero uscì nel giardino mormorante e quando la brezza del mattino gli portò l'odore dei fiori esotici, trasalì come chi si sveglia da un sogno. Si volse incerto alla torre che aveva appena lasciato. Era stregata, incantata, aveva sognato tutto. E mentre guardava, la torre oscillò nella luce dell'alba. La cima, tempestata di gioielli, mandò un ultimo barbiglio e poi si abbatté in mille schegge lucenti. La locanda della tormenta è stata lieta di presentarvi Conan, la torre dell'elefante.